Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Era da qualche settimana che mancava questa canzone dei Red Worms Farm e quindi ho voluto aprire la seconda parte di quest'oggi di Eclettica proprio andando a riprenderla, andando a riprendere Beastie. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20 su queste frequenze, altrimenti disponibile in podcasting, quindi l'orario potreste deciderlo anche voi. I dettagli su RadioRockFM.com oppure anche su MySpace.com/Eclettica, quello che è il nostro spazio su internet. Invece nella prima parte ci eravamo ascoltati in chiusura prima Beach House e poi The Whit Sundays con le loro atmosfere fra Beach Boys e Ecstasy. E lasciamo invece ora lo spazio ad un duo che proviene dal Texas, da Austin per la precisione, dove fra l'altro in poche settimane ci sarà il South by Southwest. Si chiamano Ghostland Observatory. I loro nomi sono Aaron Behrens e Thomas Turner. Il primo è il cantante, il secondo è il musicista. Il cantante tra Freddie Mercury e Prince, e invece il musicista tra i Daft Punk, Laurent Garnier, Green Velvet e gli Animals, David Bowie, Clash. Quindi avete già capito che abbiamo una formula un po' particolare, una mistura un po' particolare. È annunciato un nuovo album, quello che sarà il loro terzo, per il mese di marzo. E quindi con l'annuncio di questo nuovo album io ho avuto modo di scoprire anche i due precedenti. E per prepararci al nuovo vi faccio ascoltare un estratto da Paparazzi Lightning del 2006. Si tratta di Sad Sad City. Loro sono i Ghostland Observatory. To the one means to hurt. You have to go out there, face that mob, and apologize for what you did. I would. I'm afraid if I open the door, they'll take all of you. No, we won't. We just want Homer. Well, maybe not you, but they'll kill Grandpa. I'm part of the mob. Drug party! L'inverno Titì se lo portava dentro. In quell'istante gli sembrò perfino che il freddo fosse più pungente nel suo corpo che fuori, per strada. Forse per questo non batteva più i denti, aveva pensato. Ormai non era che un unico blocco di ghiaccio, come l'acqua nei canaletti lungo i marciapiedi. Un'insegna luminosa sopra la porta di una farmacia indicava la temperatura, 8 gradi sotto zero, e l'ora, 20:01. Riparandosi a malapena in un androne, dalle 19:30 in poi, Titì era stato a guardare i minuti sfilare. Poi l'aria gelida gli aveva annebbiato la vista. Si era reso conto che il furgoncino bianco dei ristoranti del cuore non sarebbe più passato e che era inutile continuare ad aspettarlo. Questo era l'incipit de Il sole dei morenti di Jean-Claude Izot. Alone. Alone. Alone. l'artista italiano che ha deciso di adottare lo pseudonimo The Niro. Ce lo siamo appena ascoltato con About Love and Indifference e prima invece la distorsione dei Sick Alps, Bells with Tremolo and Distortion, lo dicevano anche nel titolo. Per proseguire in eclettica invece con un nome che sta andando per la maggiore negli Stati Uniti, ospiti dei talk show serali, saranno anche fra i protagonisti del South by Southwest che già vi ho citato, i MGMT che vengono da New York City e ci stiamo per ascoltare con il pezzo intitolato Time to Pretend, che è estratto da Oracular Spectacular. Però prima di fare tutto questo io voglio leggere le parole di qualcuno fra voi, immagino in questo momento all'ascolto, dove questo momento può essere quello della diretta del lunedì sera o anche quello di un ascolto via podcasting. Cosa ne dici di usare come incipit alcuni brani tratti da Jean-Claude Izzo? Ti consiglio la trilogia noir Casino Totale, Ciurmo e Solea e bellissimi Il Sole dei Morenti e Marinai Perduti. Un abbraccio circolare, Beppe, che scrive da Genova. Hai visto, Beppe? Sto leggendo proprio Jean-Claude Izzo, perché i vostri mail servono anche per questo, servono per aiutarmi a scegliere, perché magari senza questo mail di Beppe io non mi sarei ricordato di andare a prendere dal mio scaffale i libri di Jean-Claude Izzo e leggerli per tutti voi. Quindi grazie Beppe e grazie a tutti coloro che scrivono a Giulio e Radio Rockfm.com. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in love. Stay back, I got a chainsaw. Uh-oh. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 16, volume numero 1, Indice, Misophone, I was a Cub Scout, British Sea Power, Beach House, The Wheat Sundays, Red Worms Farm, Ghostland Observatory, Sick Alps, The Nero, MGMT, Tennis Coats. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.